Vendo tutto di Matteo Caccia. Einstein sosteneva di poter vivere con solo quattro oggetti: un violino, una penna, un orologio e una giacca di pelle. Tutte cose regalategli dalla moglie. Violino, penna e orologio io li ho già venduti. E vado avanti, non mi fermo, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo quattro anni insieme. Capita, lo so. Succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un cactus. Allora, c'è stato un piccolo fraintendimento. Nel senso che il cactus che vendo oggi non l'ho trafugato dal Messico. Prima sulla pagina Facebook ho messo la sua bella foto, anche sul sito di Radio 24 c'è la foto del cactus che vendo e ho spiegato come sono venuto in possesso, no? Che è poi la storia che vi sto per raccontare oggi. Però la storia è che io sono stato in Messico, mi sono innamorato dei cactus per dei motivi ben precisi che vado a raccontarvi, ma non l'ho portato via da là, perché era un po' difficile portare via un cactus dal Messico. Ma non è così invece per decine di ascoltatori che invece pare che si siano portati a casa di tutto dalle vacanze. Paola, vabbè, dall'Egitto mi sono portato a casa una tovaglia con dei disegni, piramidi, simil mummia, egiziani ed egiziane danzanti rigorosamente di profilo, di materiale simil juta beige, mai usata perché portatrice sana di un odore rancido di muffa misto a piedi che uccide. Maria, mi sono portato a casa tre bicchieri da gerba, ma comprati oppure trafugati? E poi chiaramente miriadi di chili di sabbia, sassi da tutte le spiagge del mondo. Francesca, io mi sono portato a casa il resto di una torta di compleanno festeggiata a sorpresa con i miei genitori a Euro Disney, compreso il piatto di portata. Il dramma è stato l'aereo, credo di aver fatto pena all'equipaggio e ai passeggeri, seduta con il mio piattino e una fetta di torta al cioccolato in mano. A ripensarci stasera chiedo a mia mamma se è ancora il piatto con gli elefantini rosa. Marco ancora, in Turchia, eccolo qua, Marco ce l'ha fatta, perché io me lo sono comprato in una serra fuori Milano. Marco invece ce l'ha fatta. In Turchia ho trafugato una pianta grassa da una moschea. La guida che avevo con me diceva che era una pianta rarissima. Io l'ho tenuta nascosta per tutto il viaggio. Ogni sera in albergo le mettevo dell'acqua, la curavo, eccetera, eccetera. Per poi scoprire una volta in Italia che è una pianta comunissima da pochi euro. Allora, Marco, innanzitutto non vanno annaffiate tutte le sere le piante grasse, altrimenti muoiono affogate. Bisogna dare da bere una volta ogni tre settimane, una volta al mese. Il mio cactus una volta ogni 40 giorni. 800240024, qualsiasi cosa vi siate imboscati nella borsa e vi siete portati a casa dal luogo delle vacanze, vale tutto, valgono oggetti innanzitutto, perché in questo programma si parla soprattutto di oggetti e delle loro storie, ma valgono anche, come avete sentito, valgono le piante, valgono pure gli animali. Ecco, basta che non mi tirate fuori la storia del cane preso alle Mauritius. Conoscete la storia del cane preso alle Mauritius? Lauretta non la conosce, te la spiego. Questa coppia che va alle Mauritius prende sto cane, che carino sto cane, lo porta, lo tiene con sé tutta la vacanza, lo porta a casa e scoprono che era una nutria, cioè era un topone gigante che loro tenevano nel letto. Ecco, la storia del cagnolino delle Mauritius, no grazie, la conosco già. Tutti gli altri oggetti, piante o cose portate a casa dai luoghi delle vacanze invece valgono. 800240024 0024 oppure 349-238-6666 per gli sms. Veniamo però al mio cactus, che non è messicano, ahimè, è di una serra fuori Milano, però ci tengo comunque tantissimo. Se volete vederlo, radio24.it, per sentire la sua storia, eccoci qui. Il cactus. Pianta grassa della famiglia dei cactacei, colore verde intenso, fusto singolo, corredata di vaso giallo. Altezza con spine 13 cm, diametro con spine 11 cm, altezza con vaso 24 cm. Da annaffiare una volta ogni 40 giorni, ultima innaffiatura 21 marzo. Perfetta per chi va pazzo per le piante ispide, ma totalmente autonome. Valore commerciale 25 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi, per informazioni e foto www.radio24.it, per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Non sono mai stato in grado di prendermi cura delle cose. Non aggiusto quello che si rompe, ad esempio. Piuttosto mi adeguo al fatto di non poterlo usare, ma non ci provo nemmeno a sistemarlo. Con la mia Vespa, quando ancora ce l'avevo, ho fatto chilometri e chilometri senza le luci di posizione che si erano bruciate. Idem con la mia vecchia televisione. Ho guardato per diversi mesi lo stesso canale perché il telecomando mi era caduto e si era aperto in due. Da questa mia incapacità nel gestire le cose ho dedotto che non sarei mai stato capace di prendermi cura di alcun essere vivente, animale o vegetale che fosse. poi non sia sempre rivelato vero, però per molti anni l'ho pensato. Io vengo da una famiglia che ama i fiori e le piante. Mia mamma tutte le estati partecipa alla gara dei balconi fioriti del paese. Riempie la ringhiera del terrazzo di gerani, azalee e ciclamini che si arrampicano fino al tetto. Roba che quando esco sul balcone, se non fossi in pianura padana, penserei di essere in Cambogia. Anche in inverno la casa è sempre piena di piante verdi curatissime. Eppure, da quando vivo per conto mio, anche una piantina di basilico nelle mie mani è durata un paio di giorni, non di più. Il cortiletto della mia casa di Milano è così arido che sembra quello di un carcere. Insomma, non sono attratto dalle piante in cattività. Poi, qualche anno fa, sono andato in viaggio in Messico e lì mi sono innamorato dei cactus. Sono arrivato a San Diego, ho attraversato la frontiera e senza nemmeno accorgermene mi sono trovato a Tijuana. Come tutte le città di confine, Tijuana sembra stare in bilico tra chi ci vive, chi ci passa e chi tenta di scappare. È la capitale della Bassa California che si estende a sud degli Stati Uniti, in una penisola stretta e lunga come una lingua. Con un paio di amici abbiamo affittato un'auto e siamo partiti verso sud. Più si scendeva e meno si vedeva, se non strade deserte, sabbia e cactus. Erano piantati ai bordi della strada, come dei pali della luce. Erano divisi in gruppi, però ognuno di loro sembrava starsene per conto suo. Mi parevano piante stupide, perché non servivano a niente. Non ti ci puoi mettere all'ombra, perché non hanno foglie. E non puoi nemmeno toccarli, per via delle spine. Un po' come quei gatti selvatici che non si fanno mai accarezzare. Poi però, durante le ore di macchina, in quelle strade bollenti e deserte, i cactus hanno cominciato a diventarmi familiari, quasi amichevoli. Tutto intorno era solo deserto, asfalto e cielo, giù, fino a Cabo San Lucas. Goodbye, goodbye California, goodbye and I'll be moving on. I sang you my songs, I know I'm wrong, fare thee well and I'll be going on. Cabo San Lucas è la punta estrema della Bassa California. È una località molto turistica, piena di americani sovrappeso che in manco due ore d'aereo sono al caldo a bere tequila e mangiare burritos. Appena fuori da Los Cabos, però, dove il deserto finisce in mare, abbiamo incontrato John, un americano che sembrava uscito da una comune fricchettona degli anni 70 e che era rimasto là. John abita lungo la spiaggia in una grande casa di legno e vive affittando a turisti non troppo esigenti dei bungalow in riva all'oceano. Dopo due ore che eravamo con lui, sembrava ci conoscessimo da anni. Parlavamo un gran lo di spagnolo, americano, italiano che avrebbe fatto impallidire Alberto Sordi. La sua casa era contornata di piante grasse, spezie, erbe di ogni tipo e ovviamente cactus. John aveva un'età indefinita tra i 40 e i 60 anni. Era in splendida forma grazie al surf e alla birra messicana, diceva lui. Non era sposato, praticamente non lavorava e si professava animista. Forse per via delle sostanze che assumeva come fossero Zigulì, vedeva ogni cosa piena di vita, di personalità. Una sera, dopo una grigliata di carne che non dimenticherò mai, iniziò a parlarmi dei cactus, i cactus che circondavano la sua casa. Sosteneva che quelle piante erano le vere proprietarie di quel luogo, che loro erano lì da anni, a fare da guardiane con la terra. Io gli dissi che era un peccato che avessero tutte quelle spine perché non le si poteva nemmeno toccare, e lui rispose che le spine servivano a difendersi dagli animali. Credo che quella fu la cosa più sensata che John disse nell'arco di quella settimana. Mi spiegò che i cactus hanno un'anima molto tenera. Sono fatti di un tessuto spugnoso che trattiene tutta l'acqua che riescono a succhiare alla terra e all'umidità dell'aria e la preservano per i lunghi periodi di siccità. Disse che l'evoluzione li ha resi pungenti perché gli animali assetati spezzavano i rami per berne l'acqua e quindi con il tempo le foglie si sono trasformate in spine. Poi si beve un'altra birra e iniziò a dirmi che anche la sua tavola da surf era viva e che gli parlava mentre erano da soli sulle onde e lì lo lasciai andare e lo persi. Però l'idea che un cactus sia uno spirito solitario, che non ha le spine per far del male, ma solo per difendersi, che non chiede altro che di essere lasciato in pace. Beh, quell'idea mi piacque moltissimo. Insieme al fatto che forse se era in grado di resistere nel deserto, ce l'avrebbe fatta anche a casa mia, magari. A fine agosto tornai a Milano e andai in una serra fuori città, deciso a comprarmi un cactus enorme, da mettermi in casa, vicino al divano. Lì mi resi conto che in realtà una pianta così costa un sacco di soldi e quindi optai per un cactus un po' più piccolo, ma che mi ricordava quelli messicani e che sarei stato in grado di far crescere nel migliore dei modi, e cioè lasciandolo in pace, come due amici che non hanno bisogno di parlarsi e anche insieme se ne possono stare tranquillamente in silenzio, ciascuno con i propri pensieri. La nostra amicizia è durata un po' di anni E ora, con la difficoltà che potete immaginare, mi devo separare anche da lui, anche dal mio cactus. Se volete però raccontarmi tutti gli oggetti che avete trafugato sui luoghi delle vacanze, potete chiamarmi. Il suo valore, quello del mio cactus, è 25 euro. La base d'asta, 99 centesimi. 80024 0024. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Questo è un pezzo magnifico di Johnny Cash. Vi ricordo comunque che, visto che me lo chiedete ogni tanto anche via SMS adesso, trovate tutti i brani che mandiamo in onda sul sito radio24.it, alla pagina Vendo Tutto. Mi fa piacere invece realizzare che al posto di ascoltatori ho dei delinquenti che si portano a casa praticamente di tutto. Nel 1979 un pezzo di marmo concavo nel quale si vedono segni di scalpello trafugato dall'acropoli di Atene. Adolfo barra Andrea, boh, saranno in due. Simone da Bergamo, un posacenere ricavato da un cocco vero in un bar della Sardegna, non fumo neppure, ma ricorda l'area della terapia del mondo. E poi Dennis da Treviso, dalla camera di un appartamento in Spagna un amico ha portato via un quadro orribile, convinto che fosse di grande valore. Era talmente sicuro che ne ho preso uno anch'io, non si sa mai. 80024 0024, sentiamo invece cosa si sono portati a casa gli ascoltatori di Vendo Tutto. Giambattista da Bologna, pronto Giambattista? Sì, pronto. Ciao, buongiorno. Ciao. Come va? Bene, grazie. Bravo. Che cosa ti sei portato a casa e da dove? Io mi sono portato a casa da Ornavasso, che sta nel Biellese. Sì. In occasione di una festa celta, un ciotolo che proveniva dal fuoco sacro di Beltane. Aspetta, scusa, fai un attimo di retromarcia. In occasione di una festa celtica. Esattamente. Ok, che come funziona una festa celtica? Che cosa c'è? Cosa accade? Ci sono vergini che vengono offerte a qualche divinità, oppure è una roba in cui si mangia e si beve? Questa delle vergini dove hai tirata fuori? No, non so, non ho idea. Mi immagino una festa celtica e non so come cosa accada. Allora, a una festa celtica in genere si trova qualcuno che fa il rievocatore, nel senso che si traveste, barra trasforma, barra trasvive in un altro secolo. Ok. Nell'età del ferro siamo lì un po' prima di Cristo in Italia. Ok. E quindi da questa festa tu ti sei portato a casa un ciottolo barra qualcosa barra... No, un ciotolo appunto che proviene dal fuoco, i ciotoli che delimitano il fuoco, praticamente quando si fa il cerchio di fuoco. Ah, ok, perfetto, come nei Boy Scout, ok. Perfetto, in queste feste a volte si rievocano anche dei rituali, i rituali dei Celti che festeggiavano durante gli equinozi e i solstizi. E lì vergini giù come piovessero, Giambattista. Perdonami, guarda, ci ho capito la metà di quello che hai detto, però mi piace il ciotolo preso dal fuoco della festa celtica. Ti ringrazio molto, Giambattista. Ciao, buona giornata, ciao. Andiamo a Padova da Claudio, pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao Claudio, come va? Se cambia meglio. Se come? Se cambia meglio. Se cambia cosa? Mi hai chiesto come va. Se cambia... Se cambia la situazione meglio, così. Ok, allora mi auguro anch'io che cambi la situazione, Claudio. Sì, e andiamo al dunque. Sì, niente, io ho lavorato in Algeria attorno alla metà degli anni 90 e ho scoperto un sito archeologico dalle parti di Tipaza, che è 60 chilometri ad ovest di Algeria. Sì. E niente, abbiamo trafugato nella cucina della mensa dove lavoravamo due cucchiai. Siamo ritornati in questo sito io e mio collega e poi, approfittando del fatto che c'era poca sorveglianza, siamo entrati alle 8 di mattina, abbiamo visitato la parte turistica e poi abbiamo scavalcato delle transenne che delimitavano il percorso al pubblico a quello che era ancora da mettere alla luce, diciamo così, ancora allo scavo. E ci siamo calati nella parte delle rovine che franavano verso il mare sulla scogliera. Cioè, Mission Impossible praticamente, mi sembra di capire. Pericolosissima, abbiamo rischiato la pelle anche. Sì? E per prendere cosa? Poi abbiamo individuato un sito che ci sembrava idoneo. Ah, non è finito? Ah, ok. E con i cucchiai abbiamo cominciato a scavare noi, pianino tra i cocci, le rovine, i rimasugli di queste antiche case romane. E il mio collega ha trovato una testa di una statuetta, dei piatti decorati. Io ho trovato due antiche monete, una in argento e una in... Ma scusami, Claudio, ma tu sei un archeologo? No. E come facevate a sapere che lì c'era? Semplicemente perché c'era un sito archeologico? Sì, beh, il sito archeologico c'era, però c'era la zona che non era ancora aperta al pubblico in quanto pericolosa. Ho capito. E voi invece ci siete entrati. Ma cosa ne hai fatto poi di questa roba? Beh, le monete io ce le ho ancora a casa, me le curo, sono numismatico, mi piacciono le monete. Ok, ci siamo arrivati, sei un numismatico. Ma cosa fai d'altro nella vita, Claudio? Lavoro, ho lavorato in radio, ho lavorato in televisione, ho lavorato come operaio, come impiegato. Ok, la definizione lavoro mi piace molto. Claudio, ti ringrazio, mi segno le tue monete romane dopo un giro che sembrava 007, insomma ve lo siete portate a casa. Buona giornata Claudio, grazie mille. Ciao a te, buon lavoro. Ciao, Roma, Maurizio. Ciao, buongiorno. Ciao Maurizio, buongiorno a te. Sei in macchina? Sono in macchina, si sente male? No, sentivo solo rumore tipo di una lavatrice in lontananza, però la tua voce si sente tranquillo. Dove sei stato e cosa hai portato a casa? Ma guarda, in realtà di souvenir più o meno trafugati ne ho presi abbastanza in giro per elencarli non ci basterebbe... No, niente di particolare, asciugamani dagli alberghi con le cifre o... posa cenere, okay. Con l'indicazione del nome, però la cosa più strana che mi è capitata, su ordinazione peraltro di diverse donne, dalla mamma alla zia, sì, amiche, fidanzate eccetera, è portare a casa i famosi quanto cari fanghi del Mar Morto in buste di plastica, colanti, acqua. Ma che schifo, ma quindi una cosa terribile. Ma quindi chili di peso anche nelle valigie? Diversi chili di peso. Va bene. Maurizio, grazie mille, buona giornata. Prego, ciao. A Firenze, Marco. Ciao Marco. Allora, io sono messicano. Guarda, una volta ho fatto un viaggio così al deserto, in Real de 14 si chiama. Sì. E sono andato con un mio amico a cercare peyote, cactus di peyote. Cioè, sì, che è una pianta grassa allucinogena, giusto? Di cui sì. Però si dice che è lui che trova te, non te che trovi lui. È lui che trova te. Allora, se non sei pronto, sì, non ti succede nulla. Però dipende se gli sei simpatico o meno. Al peyote. Allora, se gli sei simpatico non ti succede nulla e se gli sei antipatico diventi pazzo. Okay. A noi non è successo nulla. Allora abbiamo fregato un peyote, sì, e ce lo siamo portati con noi. Ma dove ve lo siete portati, Marco? A casa, cioè io sono di Città del Messico. Allora, tutto il percorso, perché c'erano tutti questi militari eccetera che controllavano borse e la paura, no? Sì. Poi niente, ce l'avevamo avuto a Città del Messico, pure è stato battezzato. Ma no, scusami, cosa ne hai fatto alla fine di sto peyote, Marco? L'ho buttato all'immondizia a mia mamma. Ma come... Ok, Marco, guarda, ti ringrazio. Io speravo in un'altra fine, invece niente, è finito nell'immondizia. Cioè, dopo che parlavamo tutti i giorni, un giorno arrivo era già sparito. Siamo andati pure a cercare l'immondizia, con quello dico tutto. Va bene, Marco, ma tu perché vivi a Firenze, scusami? Lavoro qui. E cosa fai? Architetto. Ah, ok, quanti anni c'hai? 33. Com'è che dal Messico si viene a fare gli architetti a Firenze? Uno fa certe pazzie. Cioè è un po' come buttare via un peyote. Marco, grazie mille, buona giornata. Ciao, a presto, ciao. No. Io ho portato da Bali un grosso pezzo di corallo preso da una spiaggia. Ciao, di solito porto a casa del vino, almeno vorrei. Spesso finisce prima il vino che il viaggio di ritorno. Francesco, grazie a tutti quelli che hanno anche chiamato ma purtroppo non ho potuto sentire. Grazie a Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Pietro Lacorte. Trovate tutte le informazioni sul mio cactus, ovviamente sul sito radio24.it e sul profilo Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Domani invece vendo un tappetino per lo yoga. Voi, se avete piante in casa, liberatevene. Piantatele all'aperto, che alla fine stare all'aperto è sempre meglio che stare al chiuso. Love, love, love.